Oh, ma non risponde. Non risponde, no, mannaggia la miseria. Ma Fabio, ma te sei sicuro che era gastrichella? Sono sicuro, sì, scala B, sesto piano. Ma sì, ma sotto la B non c'era. Sa, saranno fregata, ste. Hai visto che a sinistra ci stava la A, a destra ci sarà stata la B. Poi là che c'è sta scritto? Gastrichella. Ecco, vedi. Dammi una sigaretta. Ma ne avevi smesso? Ieri. Ma come ieri? Ho smesso ieri, oggi ricomincio. Che ha smesso ben giorno? Vabbè, butto via, meglio di niente. Mo me ne fumo una e poi rismetto, dai, va. Tiè. Yeah. Fammi pure accenne. Pure. Ma che sigaretta ti sta a fumare? L'MS? Oh, so buona. All'inizio so un po' così, poi però danno le loro soddisfazioni. Ma ti accontenti di poco, eh? Ma che me sta a sindacare che me fuma? Capito, stai, ma se fumano i vecchi. E porra di che so vecchio, dammi sta sigaretta, senta la fumite, ma la fumo io dopo. Guarda, se la ripia pure, oh. Oh, zitto, me sta a chiamare Bracione. No, cazzo, è tua sorella, amore? Sì, mo appena il notaio ci dà le chiavi, andiamo là. Sì, andiamo perché ci sta pure tuo fratello, gli ho chiesto di accompagnarmi, capito? Sì, no, sto a parlare a bassa voce perché stiamo nella sala d'attesa del notaio. Tanto l'indirizzo ce l'hai, no? Via Tamburano 3, scala B, sesto piano. No, ma che t'avvi? No, aspetta, Patrizia, Patri! Mannaggia la miseria, oh. Ma che è sta storia del notaio? Ma stai, mi sono dovuto inventare che mio zio, quello che è morto, mi ha lasciato una casa. E perché sta cazzata? Perché che ne la conosci tua sorella? Se gli diceva la verità che me lasciava venire qua. Per colpa di quei fide una mignotta delle Roi a Merlin, no, che se ne aprivano loro quando si chiudeva. Con quello che piavo io, più quello che pia tua sorella, che c'avevo bisogno di venire qua. Se la potevamo piano affitto una casa, no? Anzi, con quello che sono arrivati mutui, comprarcela. Da ragazzino che ce lavoravo 10.000 lire a settimana piavo. Che ferramenta che era. In 10 eravamo a servito, ricordi? Tutto quello che cercavi noi ce l'avevamo. Ma che sta di che appena vite piatta a brugola mi ha fatto aspettare 3 giorni. Beh, te credo, pure te vieni lì appena vite piatta a brugola, ma ringrazia Dio che t'avamo data. Eravamo ertitanici di ferramenta, eravamo a vite piatta a brugola, mi dicevo. Tempo 3 anni e siamo andati a picca, è stata una strage. A brugola, guarda che dappertutto è così. Pure i giornali di consegno io se lamentano. Una volta la gente leggeva, i edicole erano aperte pure di notte. C'è sta uno che faceva il mestiere mio, mi raccontava che 25 anni fa, lo sai quante copie del giornale consegnava? 500. Lo sai quante copie consegno io? Oh, sto di a te. Ma stai, ma che ne so? 50. 50? Prima con edicola ci campavano due famiglie, mo manco una. Chi resiste so giusto quelli al centro, ma mica so più edicole, so bazar. Vendono di tutto. Souvenir, cartolina, gli manca solo il kebab. Senti un po'. Ah, senti sta musica. E da sta porta qua. Come si chiama questo? Pisa. Ua Pisa, te sta a squillare il telefono, poi risponde che sì, forse sì. È Braciola. Oh, finalmente è Bracio. No, non sono entrato. Sì, non sono entrata, la lastra non ha funzionato, no. Dai, sbrigati a venire qua. Accanna sti video poker, dai, ti aspetto. Sì, chi si muove? Ciao. Che palle, oh. Beh? Mo arriva carattrezzi e ci fa entrare. Col carattrezzi? Ma quale carattrezzi? Con l'attrezzi. Sì, ma mo arriva quando? Aste, non mi ha detto, te se te ne devi andare va. Senti, ma la togli una curiosità? Ma di chi è qua la lastra là per terra? È di mio nonno, si era rotto il femore. E te davvero pensavi da bricco quello? Oh, il Braciola così mi aveva detto. E ce la vorrei pure dal ferramenta, poi te lamenti che ha chiuso. Senza le mandate forse, ma che mandate, in dove vai? Non hai capito che quando la vecchia è morta in ospedale, il traballa mi ha avvisato subito, mi dovevo sbrigare. Che non sai che c'è sta fila per occupare ste case, mo gli andavo a chiedere se c'erano le mandate. Ha lasciato un saporaccio qua, sigaretta, dammi una gomma, va. In ospedale, Ma era morta a casa questa? Ma quale casa? Ma poi il traballa chi è? Ercole Buccilli, guarda che lo conosci pure te. Io? Sì, che il padre c'aveva il forno, faceva la pizza buona. Mi ricordo. Oh, ci andavamo sempre dai ragazzini a magnarsela, io te e lui col panza allegra. Te so di che mi ricordo. Vabbè, stamma a sentì, mo il traballa fa l'infermiera al San Camillo. Quando ti arriva quello dell'ambulanza che ti ricovera un vecchio delle case popolari, questo da ambulanza che fa? Che ne so, che fa? Gli passa il traballa nome, cognome, indirizzo del vecchio, in questo caso da vecchia che sono andata a pià. Mo fortuna nostra ha voluto che sta vecchia è morta subito, pace all'anima sua, ma al finale meno male. Ed ecco che il traballa ha avvisato il Braciola e il Braciola mi ha chiamato a me, ha capito il giro? Bel giro de merda. Che vuoi di? Niente. Quanto gli ha dato sto traballa? 200 euro. E me coglioni. Oh, e qualcosa deve steccare pure con quello da ambulanza, no? Vado a gettare la carta. Oggi è il giorno della carta. Voi la fate la differenziata? Eh? La differenziata. Carta con carta, vetro e alluminio con vetro e alluminio, plastica con plastica. Abbiamo capito, lo sappiamo che è la differenza da nafa, mon be? È male. Se noi uomini lasciamo i nostri rifiuti liberi nell'ambiente, come ad esempio la lastra di suo nonno o le vostre gomme da masticare, sapete quanto tempo impiegano a degradarsi? Per non parlare dell'alluminio. Un secolo. La plastica dai 500 ai 1000 anni. Oh, bello sbroccato sto Pisa, eh? Senti, ma se quella cazzo di differenziata era una scusa per chiamare i guardi? E se vuole chiamare i guardi, chiamava da dentro casa, no? Ma l'ha visto che occhi da matto, oh? E come ci guardava fisso. Lo sai chi mi ha ricordato, Stefani? Mefisto. Ma chi? Quello di Torre Vecchia? Ma quale Torre Vecchia? Quello dei Tex, Torre Vecchia. Oh, Mefisto qua, dentro casa ha lasciato la musica accesa. Ma che dici, vive da solo? Può essere. Di solito quelli un po' strani vivono da soli e sentono la musica classica. E mo chi è che t'ha detto a sta stronzata? Non è una stronzata, fa. Da abitavo io da ragazzino, c'è stava uno strano che tutti i giorni si metteva la musica classica a tutto volume e faceva le flessioni. Le flessioni? Si attaccava la gamba alla ringhiera del barcone e poi andava su e giù sulle gambe così. Ma quello vomitava? Sì, mo vomitava tutti i giorni questo. Che cazzo di gente, oh. Ci posso credere che è una maletto Tex. Io c'ho uno scatolone pieno a casa dal numero uno, erano di mio padre. Mo come entro dentro, mi prendo una bella parete, ci faccio una libreria e ce li infilo tutti, n'ha capito? Pensa quanto sarà contenta Patrizia. Perché? Ti ricordo che mia sorella è allergica alla polvere. E vabbè, sti cazzi. Abito alle case popolari e scembia vai, dei mignotte tossici aspiranti usurai. Abito alle case popolari e mi dirai, vedi tanto vieni, dimmi quanti impicci c'è. Oh, vasa tutta. Quanti pregiudizi, quante cose che non sai.